popò siamo qua. Con l'augura le motto, vedessi sanità. Orgio a far nono numero, a papare il catampi, per dar la popò polvere negli occhi.